il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Calano nel Veneto le imprese agricole, scese di un terzo negli ultimi 10 anni, da oltre 90.000 a 65.000. Aumentano però le imprese agroalimentari, settori come il comparto vitivinicolo vanno a gonfie vele, ma settori come la carne e quello del latte scontano un periodo di forte disagio, aiutati quasi solo dal calo del prezzo dell'energia e dei carburanti. Bene va il radicchio, meno bene cereali come il mais e la soia, oppure la barbabietola da zucchero. Insomma, il 2015 è stato per il Veneto, complice anche un clima particolarmente caldo e secco, un'annata veramente difficile. Cerchiamo di farlo con Giuseppe Pan, da pochi mesi assessore all'agricoltura della Regione Veneto, che questa settimana ha presentato in anteprima i dati dell'annata agricola. Sì, è una stagione 2015 molto diversificata. Abbiamo avuto per le condizioni climatiche una serie di produzioni che sono andate bene, alcune sono andate un po' meno bene. Abbiamo avuto una primavera molto calda, questo ha influito soprattutto per quanto riguarda i seminativi e un calo delle produzioni, soprattutto in quei luoghi in cui non c'era un'irrigazione consona o artificiale, quindi una perdita soprattutto nel mais e nella soia. D'altro canto invece nel settore vitivinicolo la stagione è bella, ha fatto sì che ci sia stata una grande produzione di qualità e di quantità nell'agricoltura vitivinicola, che è quella trainante poi della Regione Veneto. Ricordo che il settore vitivinicolo dà circa 1,7 miliardi di prodotto interno lordo, mentre l'agricoltura in generale dà circa 5,5 miliardi. Se assommiamo l'agroalimentare per altri 5,6 miliardi, vediamo che c'è un settore che comunque porta al nostro Veneto quasi un quarto del prodotto interno della nostra regione. Abbiamo un'agricoltura che da questo punto va bene nel settore vitivinicolo, va meno bene sul settore lattiero caseario e soprattutto su quello bovino, e quindi anche qui ci sono delle sofferenze importanti. Un ortofrutta che è in grande sofferenza soprattutto per le pesche e per i kiwi, mentre magari nella orticoltura andiamo molto bene soprattutto col radicchio. Quindi vedete alti e bassi che comunque fanno vedere che in Veneto abbiamo anche una perdita comunque di imprese, quindi chiudono imprese, allo stesso tempo però aumentano gli addetti, quindi le imprese che rimangono diventano più grandi, più strutturate e assumono personale dipendente, quindi è una fase di grande trasformazione che stiamo seguendo in maniera costante. Assessore Pan, sappiamo che l'agricoltura è in trasformazione, in particolare c'è un programma di sviluppo rurale che stanzia risorse per circa 1,2 miliardi che ci dovrebbe accompagnare gli agricoltori fino al 2020. Pensate che questo possa invogliare soprattutto i giovani a rivolgersi all'agricoltura? Sì, sembra strano che in questo sistema, in questo momento anche storico, attualmente un imprenditore, un ragazzo o un signore si metta ad aprire un'azienda agricola o un'azienda in generale, uno Stato che comunque sappiamo quali problemi soprattutto nella tassazione delle imprese abbia. Però l'opportunità c'è, noi stiamo mettendo in campo questo nuovo piano di sviluppo rurale che parte da quest'anno fino al 2020 e soprattutto per i giovani che vogliono insediarsi e aprire un'azienda ci sono a disposizione 40.000 euro a fondo perduto. Per giovani io intendo persone che hanno dai 18 ai 40 anni, quindi con questi 40.000 euro chiaramente non risolvono i problemi di un'azienda in generale, ma fanno partire queste nuove realtà. Noi stiamo vivendo, come tanti altri mondi economici, un ricambio generazionale, molti anziani stanno abbandonando le aziende agricole vogliamo che magari i nipoti, i figli di queste persone, ma anche persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo in maniera nuova, con idee nuove, possono avere questi incentivi. Stiamo anche tentando di avere una convenzione con l'ABI e la Banca Europea degli Investimenti per aiutare anche gli investimenti poi che l'imprenditore deve avere nella propria azienda, sia in partenza ma anche di quelle che sono già strutturate. Ecco, assessore, lei è anche assessore alle bonifiche, oltre che all'agricoltura. Sappiamo che le condizioni meteo di quest'inverno stanno creando dei problemi. Qual è il rischio? Cosa state cercando, pensate di fare? Sì, abbiamo visto, sono più di 3 mesi che non scende una goccia d'acqua in Veneto, in montagna non c'è un grammo di neve e quindi sicuramente è un momento difficile. Stiamo pensando come bonifica appunto di aprire una cabina di regia in un momento entro 10 giorni, entro la fine di questo mese di gennaio, per coordinare una serie di iniziative che vanno verso il risparmio idrico e naturalmente verso quelli che sono il mantenimento delle acque in montagna in modo di prepararci alla stagione prossima avventura. È chiaro che fortunatamente siamo ancora in inverno, per le produzioni agricole partono ad aprile con le semine, maggio, e quindi dopo, se le condizioni non cambiano, saranno veramente guai seri per tutti, quindi ci sarà probabilmente anche tutta una serie di razionamenti dell'acqua a uso civile, industriale, e poi vedremo come, sperando che dal cielo arrivi una risposta. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down, come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. Always the same. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi abbiamo cercato di fare il punto dell'andamento dell'annata agricola 2015, lo abbiamo fatto in occasione della presentazione da parte della Regione Veneto dei primi dati consuntivi con l'assessore Giuseppe Pan, appunto da pochi mesi assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Vorremmo ora approfondire alcuni argomenti con il dottor Alessandro Censori, che ha curato l'analisi appunto di questi dati. Dottor Censori, sappiamo che vi sono alcuni settori che abbiamo visto non vanno per nulla bene, come quello del latte e il settore lattiero caseario in generale. Allora, una questione appunto dei formaggi, ovviamente non parliamo dei formaggi veneti, o meglio, specifichiamo, i formaggi veneti, la grandissima parte del latte viene trasformato in formaggio, questa è la nostra forza, formaggi ad hoc e formaggi comunque o a tradizione locale o quello che è, no? E un dato che non è specifico veneto ma è nazionale, ad esempio molti prodotti lattiero caseari vengono importati. Il prezzo di importazione è circa 3 euro al chilo. Molto formaggio nazionale, tra cui anche i nostri, grana, l'export dell'Asiago è decisamente inferiore, vengono esportati. Il prezzo medio dei formaggi italiani esportati è 6 euro. Quindi sta a significare, mentre a volte viene fatto, diciamo, in maniera generalizzata e ad alzo zero la questione della qualità, qui abbiamo un riscontro oggettivo che le produzioni lattiero-caseare nazionali sono produzioni di qualità, perché il mercato riconosce questa qualità, non a caso appunto paga il doppio che non le produzioni importate. In effetti dai dati si vede che appunto le produzioni tipiche, le produzioni locali o comunque quelle su cui si può avere un maggiore margine sono quelle che tirano di più, mentre magari quelle più generiche forse sono più in sofferenza. Sì, questo è, ritengo, è difficile dirlo incontrovertibile, perché di certo non c'è niente, ma diciamo sicuramente il trend è questo e lo si vede guardandosi indietro, ma presumibilmente anche nei prossimi anni. La storia non si fa con le colture estensive, o meglio, la redditività dell'impresa si fa con le colture estensive se queste vengono successivamente trasformate e trasformate in prodotti tra virgolette nobili, che sono appunto la carne, perché c'è difficoltà ovviamente adesso per la carne rossa, ma c'è anche, ci sono i suini, ci sono le carni bianche eccetera, e appunto per i prodotti lattiero-caseari, perché i prezzi delle commodity sono dei prezzi che sono soggetti ad una estrema volatilità e sono fatti su un mercato internazionale. Adesso quella che si chiama globalizzazione, la globalizzazione dei lati appunto critici, che appunto può riguardare, se parliamo di agroalimentari, le grandi culture, però la globalizzazione permette anche di portare il grana, permette di portare i vini nelle tavole, nelle mense, nei ristoranti di New York come di Pechino piuttosto che non di Sydney. Certo, il riso, visto che è un prodotto che ha tutti i valori positivi nell'anno scorso, pur essendoci una situazione climatica così difficile. Sì, beh, il riso, diciamo, non abbiamo in Veneto delle grandissime produzioni, comunque anche il riso, se prendiamo l'area veronese, anche parzialmente appunto Rovigo, ma soprattutto l'area veronese, ha trovato anche una valorizzazione locale molto importante, c'è una filiera che si è sviluppata a livello locale, quindi al di là delle produzioni, infatti, lo sforzo che si sta facendo, che gli imprenditori in primis ovviamente stanno facendo, è quello di inserire questi prodotti in un contesto locale, territoriale, quindi diventa un volano di economia che va al di là ovviamente della esclusiva produzione del settore primario. Grazie dottor Censori. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.